2024 2024 di Enrico Pagliarini. Inizia una nuova puntata di 2024, sono le 15:33 minuti. Paolo Corleoni oggi si occupa della parte tecnica. Potete raggiungerci scrivendo sulla nostra pagina Facebook oppure scrivendo su Twitter. Potete seguire il mio Twitter, quindi Enrico Pagliarini. Come sapete io preferisco sentire la vostra voce, quindi il nostro numero verde 800 24 0024, gli SMS al 349 238 6666. Dopo settimane di attesa, Facebook è, potremmo dire finalmente, visto che non se ne poteva più di questa attesa, sbarcato alla borsa di New York, al Nasdaq di Times Square, formalmente al Times Square, ma di fatto poi i computer chissà dove sono, sparsi qua e là. Al di là di come sono andate le cose, il primo giorno l'azione è tornata praticamente sul livello di quotazione, poco sopra i $38, con un guadagno dello 0,6%. C'è chi dice che è stata una quotazione deludente, c'è chi dice invece che il prezzo è stato azzeccato perché poi il mercato si è appoggiato su quel prezzo. Ma insomma, al di là di queste cose, vogliamo partire oggi dalla quotazione di Facebook per parlare di due cose. Allora, nella seconda parte vi annuncio già che all'interno di 2024 parleremo dei privati nello spazio. E voi dite, che cosa c'entra Facebook e il mondo dello spazio? Allora, ci sono un sacco di soldi che si stanno spostando verso il settore spaziale e molti di questi soldi arrivano proprio dal mondo della tecnologia, che negli Stati Uniti attualmente è uno dei mondi più ricchi, e la quotazione di Facebook lo dimostra. L'altro tema che si lega alla quotazione del social network più famoso del mondo è uno dei, potremmo definirli, mega trend di cui si parla molto negli Stati Uniti e direi oramai in tutto il pianeta, quello dei cosiddetti big data, che tradotto in italiano suona come grandi dati, o meglio grandi quantità di dati. Questo è un tema che può sembrare per addetti ai lavori, in realtà è molto importante conoscerlo, sapere di che cosa si parla. L'asset più importante di Facebook, che cos'è? È stato detto più volte, sono i 900 milioni di utenti che scrivono, caricano fotografie, video, audio, commentano sulla pagina di 2024. Questo flusso costante di informazioni crea una quantità di dati da immagazzinare incredibile. Ma se ci pensate, anche una quantità di dati che debbono essere elaborati, analizzati, e se sono ben elaborati e analizzati possono fornire informazioni di tanti tipi. At the most basic level, it's organizations understanding that competing on analytics is a matter of survival. Alla base c'è la consapevolezza che la competizione basata sull'analisi dei dati è una questione di sopravvivenza. È necessario prendere decisioni basate su dati e non su quello che ti suggerisce la pancia, e per questo servono appunto i dati, le informazioni. E questi sono dati che arrivano dal web, dai social media, dai sensori e così via. La voce che avete sentito è quella di Steven Brobst, CTO, quindi Chief Technology Officer, responsabile delle tecnologie di un'azienda che si occupa di big data, di tecnologie di analisi dei dati per prendere decisioni, che si chiama Teradata. Ci ha dato un assaggio di quello di cui parleremo, sentiremo anche Steve Brobst nel corso della nostra puntata, uno dei geni della tecnologia statunitense di Silicon Valley. Se Steve Brobst si fosse occupato di elettronica di consumo, potremmo paragonarlo forse a Steve Jobs. Se allarghiamo il quadro e da Facebook pensiamo alla nostra vita, oramai molte delle cose che facciamo hanno una traccia digitale, cioè si trasformano in dati, e la quantità di dati che si sta accumulando nel pianeta sta crescendo esponenzialmente. Sono cose che ogni tanto diciamo e ridiciamo. Pensate che cosa accadrà nei prossimi anni, quando tutti avranno uno smartphone e un numero sempre maggiore di cose che faremo nella vita quotidiana saranno in qualche modo legate ad internet. Andrew Sutherland è Senior Vice President e uno degli esperti di Big Data all'interno di Oracle. So big data indeed has become very popular recently and a lot of people are talking about it. In fact, quello dei big data è un tema che sta diventando sempre più popolare. I dati sono aumentati silenziosamente negli archivi di aziende ed enti per molto tempo. Si tratta di informazioni derivanti da vari strumenti, ad esempio i sensori. Ci sono sensori sui veicoli oppure sui mezzi per il trasporto di merci, dagli smartphone e gli altri dispositivi mobili, o ancora dal traffico su internet, l'accesso degli utenti a un particolare sito web, la visualizzazione di questa o quell'altra pagina. I dati arrivano infine anche dai social networks. Ogni tweet, ad esempio, include una serie di informazioni come quelle relative al mittente, eccetera. So it might be every time somebody tweets and the tweet includes the name of your organization, there's a packet of data. That's very high volume. All of the data I've described, very high volume. It's typically very loosely structured, you know, it's not well formatted, things aren't related to one another. Questi dati costituiscono volumi molto grandi di informazioni, che però non sono ben strutturate. Al loro interno si possono trovare ingenti quantità di dati non significativi e assieme piccole porzioni di dati interessantissimi. Ora, i big data hanno sicuramente un valore intrinseco e il punto è proprio quello di poterlo estrapolare. That's what we see big data as being. Un altro esempio di cosa si può fare con la capacità di analizzare questa grande capacità, questa grande quantità di dati, ce l'ha da Stephen Brops, CTO di Teradata. One example that comes to mind is automobile driving. Uno degli esempi che mi viene in mente è quello delle assicurazioni per gli automobilisti. Il funzionario dell'assicurazione osserva un gruppo di automobilisti e in base alle loro caratteristiche decide quanto ognuno debba pagare di premio assicurativo. Ma in questo gruppo ci sono in realtà automobilisti buoni e automobilisti cattivi. E quelli buoni sovvenzionano quelli cattivi. Good drivers subsidize the bad drivers, which results in essentially unfair pricing. So that to me is the problem to be solved with big data. Il risultato è una politica di prezzi ingiusta. Insomma, questo è per me il problema da risolvere utilizzando grandi quantità di dati. La soluzione è che invece di utilizzare come base di rischio l'età, il sesso, il tipo di auto che guidi o dove vivi, con l'analisi di grandi dati, i big data, possiamo tracciare le abitudini di guida dell'auto. With big data we can actually track the driving habits of the car. Quindi, nelle auto arriva una scatola nera ed è possibile vedere quanto veloce uno va, quanto frena, quanto veloce fa le curve e via dicendo. We will give you discounts. If you're a good driver, you get a discount. If you're not such a good driver, you get no discount. E in base al comportamento reale, possiamo farti uno sconto se sei un bravo pilota. Se non sei bravo, nessuno sconto. It also means that the good drivers do not subsidize the bad drivers. Questo significa che i bravi automobilisti sono incoraggiati ad essere bravi. E questo è positivo per tutta la società. E significa anche che i bravi non sovvenzionano i cattivi piloti. This is possible by collecting that detailed data, the sensor data from the cars. Questo è possibile raccogliendo dati dettagliati, dati dei sensori delle auto, analizzandoli e creando nuovi modelli di prezzo. Analyzing it and creating new pricing models. Uno potrebbe pensare che questo tema riguardi solo le grandi aziende, invece no, dovrebbe interessare anche le medie piccole, non tutte, ma tutte quelle che in vario modo possono raccogliere dati e spesso la possibilità di raccogliere questi dati è nascosta dietro un angolo. Allora, ho partecipato in settimana ad un convegno di Ediel, che è una società consortile al servizio del sistema dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici. I produttori, i distributori, quelli che vendono e producono elettrodomestici e elettronica di consumo hanno creato questa società per, diciamo così, digitalizzare il processo dell'ordine. È una piattaforma molto interessante, eccezionale, tecnologicamente un esempio unico al mondo di come si può rendere efficiente una filiera digitalizzandola. Quindi una persona che deve vendere un prodotto fa un ordine, questo ordine arriva al produttore e questo ordine viene poi condiviso anche con il mondo della logistica che deve trasportare questo prodotto. Ma attenzione, con mio grande stupore ho scoperto che ancora alcuni player di questa catena usano la carta. Pensate, c'è a disposizione la tecnologia che ci permette di raccogliere dati e poi analizzare questi dati e c'è ancora chi utilizza la carta. Una delle difficoltà da superare è infatti di carattere culturale. Sentiamo ancora Andrew Sutherland. Some of that data is very explicitly collected. So let's take, for example, smart metering. Alcuni tipi di informazioni vengono raccolte in maniera molto specifica. Prendiamo ad esempio il consumo intelligente di energia. C'è un gran bisogno di razionalizzare i consumi delle nostre case. I contatori, di fatto, inviano ai fornitori i dati relativi ai consumi degli utenti. In questo caso, la raccolta delle informazioni è molto regolare, strutturata e interconnessa. At the other extreme, you have something like Twitter. All'estremo opposto ci sono fonti tipo Twitter o Facebook. In quei casi non esiste un vero e proprio metodo di raccolta dei dati. Le informazioni sono semplicemente là, in ordine sparso, e sta a chi le raccoglie ordinarle. I grandi volumi di dati non sono dunque ben definiti, soprattutto a causa del metodo di raccolta. Tra i due estremi, i big data strutturati grazie ai contatori e quelli non catalogati derivanti dai social network, ci sono molte organizzazioni che di fatto stanno raccogliendo più dati di quanto pensino. Queste società, che hanno un sito internet, un call center, delle registrazioni effettuate dai venditori, dovrebbero considerare questi dati non come un costo, ma decisamente come una risorsa, perché credo che con i sistemi di gestione moderni questi big data potrebbero davvero rappresentare un profitto. E questo è molto importante. E beh, se vi siete spaventati finora, perché pensate che queste siano cose solo per aziende giganti come Facebook, per aziende internazionali, beh, sappiate che siamo solo all'inizio di un trend, ma la tecnologia è così veloce che sarebbe opportuno non aspettare molto tempo prima di comprendere e capirla. Stephen Brobst. Direi che siamo veramente all'inizio, ma è anche già molto popolare. Whenever there's a new technology, everybody sees this new interesting shiny object and they all run to the shiny object. C'è una cosa che Gartner chiama hype cycle. Ogni volta che c'è una nuova tecnologia, tutti ammirano questo nuovo oggetto scintillante e tutti sono attorno a questo oggetto. And all the vendors selling the technology say it's going to solve all of your problems. E chi vende tecnologia dice risolverà tutti i tuoi problemi, creando così un'aspettativa esagerata. Over expectations that get set. And then reality sets in and says, "Oh, those vendors were lying to me again." Dopodiché ci si rende conto della realtà e si dice: "Ah, mi hanno mentito. Questa cosa non risolve tutti i miei problemi." And then you have the trough of disillusionment where they say, "Ah, I don't believe anything anymore." Quindi c'è il momento della disillusione e uno dice: "Non credo più a nulla di tutto ciò." Poi di nuovo uno si rende conto che in realtà la tecnologia serve per risolvere alcune delle cose. E così diventa una tecnologia disponibile per tutti. Dunque, siamo all'inizio e probabilmente all'apice di questo ciclo dove tutti ne parlano e ne sono entusiasti. Ma la gente sta cercando di capire come utilizzare queste tecnologie, come estrarre valore. Most mainstream companies outside the dot-com, so the dot-com companies, they're really into it. For them it's more mature. A parte le dot-com per le quali questa tecnologia è matura, molte aziende come banche, grande distribuzione, telecomunicazioni, stanno iniziando a sfruttare i big data. Diciamo che si stanno guardando attorno. In questo momento siamo all'inizio di un'adozione di massa che non c'è ancora, ma penso che ci sarà nei prossimi 18-24 mesi. Queste sono informazioni utili anche per chi deve fare business. A proposito del fatto che siamo ancora all'inizio di questo ciclo di adozione, sentiamo ancora Andrew Sutherland di Oracle. I think we are. Absolutely. I think we've got a backlog of data which is there, as I described. I think many organizations are sitting on oil. Sì, penso che siamo all'inizio dell'era dei big data. Esiste un cumulo di dati che si è sedimentato dal passato e molte grandi organizzazioni sono letteralmente sedute su un giacimento di petrolio che per ora è stato troppo difficile estrarre. In altre parole, hanno questa quantità di dati arretrati che sono pronti per essere utilizzati. Not everybody who sees the marketing messages of your company. I messaggi pubblicitari raggiungono molte persone, ma non tutte vengono convinte a comprare il prodotto in vendita. Perché no? Se potessero identificare meglio i possibili acquirenti, potrebbero risparmiare denaro. Le risposte a queste domande possono essere affinate proprio utilizzando le risorse di big data già esistenti. Se guardiamo al futuro, penso che vedremo espandersi l'utilizzo strumentale delle informazioni riguardanti le nostre abitudini di utilizzo di internet, delle nostre auto, eccetera. E naturalmente tutto ciò solleva questioni di privacy che verranno affrontate in maniera diversa dai vari paesi, ma non spetta qui a me affrontare questo tema. In termini di volume di dati, andiamo certamente verso una maggiore capacità di elaborazione da parte delle aziende e credo che siamo solo all'inizio di questa nuova era. But in terms of the volume of data coming in the direction of organizations and being able to process that data. I think we're at the start, absolutely. 2024. Concludiamo questa parte dedicata ai big data, di fatto anche all'analisi dei dati, a quella che viene chiamata business intelligence, business analysis. Ci sono vari termini che poi vogliono dire le stesse cose, cioè la capacità di raccogliere i dati, metterli tutti assieme e elaborarli, analizzarli per capire ed estrarre valore. All'interno di tutto ciò c'è anche un sistema che si chiama Data Warehouse, che serve per omogenizzare, ordinare tutti i dati che si hanno all'interno di un'azienda. Allora, a proposito di tutte queste tecnologie che oggi vengono utilizzate in azienda, nelle grandi aziende, sempre più nei prossimi anni anche nelle medie e piccole aziende, ma c'è qualche cosa in più e uno sguardo verso il futuro lo abbiamo chiesto a Steven Brobst, che è il CTO, Chief Technology Officer di Teradata. Historically, when we build the data warehouse, we build it for the employees of our organization to make better decisions. Storicamente, noi abbiamo costruito il data warehouse per le persone che lavorano in azienda per prendere migliori decisioni. Un secondo step è stato condividere l'analisi di questi dati con i partner della catena del valore. Ad esempio, una catena della grande distribuzione condivide questi dati con i propri fornitori, così che possano prendere insieme migliori decisioni. The next wave of this, I believe, is delivering the intelligence capability all the way out to the consumer. La prossima ondata credo che sia fornire questa capacità di analisi, questa intelligenza al consumatore finale. Una cosa che io chiamo consumer intelligence. So I call this consumer intelligence. If you look at what the CEO of a bank, se tu guardi ad una banca, l'amministratore delegato vuole conoscere tutto sui ricavi, sui costi, la crescita e gli investimenti. If you're the CEO of a household, you know, your family, se tu sei l'amministratore delegato di una casa, della tua famiglia, tu vuoi vedere le stesse cose. You want to see the same stuff. Beh, in questa prima parte di 2024 vi abbiamo dato alcuni elementi importanti per la competitività delle imprese. Se non capiamo quanto importanti sono queste tecnologie, beh, penso che il sistema paese non possa esprimere grandi aziende nei prossimi anni. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. È nata questa settimana la società mista pubblico-privato che porterà la fibra ottica nel 60% delle abitazioni della provincia autonoma di Trento entro il 2022, investimenti per 165 milioni di euro per 150.000 unità immobiliari. Abbiamo informazioni su Volunia, il motore di ricerca italiano lanciato il 6 febbraio, ma ancora disponibile solo per un numero limitato di utenti registrati. Volunia sarà disponibile per tutti a partire dal 21 giugno. Secondo l'osservatorio e-commerce Business to Consumer Netcom School of Management del Politecnico di Milano, nel 2012 in Italia il commercio elettronico crescerà di circa il 18% per un fatturato stimato attorno ai 9,5 miliardi di euro. La prossima settimana Hewlett-Packard, la HP, renderà noti i conti del trimestre. C'è accordo tra alcuni media sul probabile annuncio di una ristrutturazione che porterà al licenziamento di 25-30.000 posti di lavoro, che corrisponde a circa il 10% dei dipendenti. Ultima notizia riguarda il TAR del Lazio, riguarda o meglio la Apple. Il TAR del Lazio ha confermato le multe per un totale di 900.000 euro che l'antitrust aveva inflitto lo scorso dicembre alla Apple, responsabile di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. L'Authority aveva contestato a 3 società del gruppo Apple la non piena applicazione ai consumatori della garanzia legale biennale a carico del venditore. Questo è importante perché la Apple continua a dire, quando vende un prodotto direttamente, che la garanzia è di un anno. Questo è assolutamente illegale, perché per legge la garanzia legale che il rivenditore deve riconoscere è di 2 anni. Luigi Bignami, buongiorno, benvenuto 2024. Grazie, buona giornata a tutti. Dunque Luigi, tu sei qua oggi per parlare di un tema che secondo me è uno dei grandi megatrend da tenere in considerazione, cioè i privati che investono per andare nello spazio. Sì, ormai sono diverse le società che da alcuni anni stanno investendo centinaia di milioni di dollari per riuscire a portare delle capsule oltre l'atmosfera terrestre. In un primo momento soltanto per portare materiale e in un secondo momento sarà anche quello di portare degli uomini. La NASA sta facendo grande affidamento su queste società, investendo anch'essa, cioè dando a queste società un certo volume di dollari proprio per investire e cercare delle tecnologie nuove e quindi far sì che ben presto siano gli stessi americani a portare uomini nello spazio di nuovo. Bene, più tardi con Luigi Bignami approfondiremo questo tema, visto che lui sa praticamente tutto di spazio. Potete chiamare il nostro numero verde per le vostre domande, 800 24 00 24. Ci risentiamo tra qualche minuto, parleremo anche dell'Authority delle comunicazioni. 2024. Seconda parte di 2024, io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che la nostra puntata, la nostra trasmissione, quindi tutte le puntate, sarà disponibile al termine all'interno del servizio podcast. Il nostro numero verde 800 24 00 24, se volete chiamarci per parlare soprattutto di spazio e degli investimenti che i privati stanno facendo soprattutto negli Stati Uniti per andare al di là dell'atmosfera. Adesso parliamo dell'Authority per le comunicazioni, perché la prossima settimana sarà importante per il futuro delle nostre comunicazioni e del sistema delle telecomunicazioni. In definitiva, potremmo dire una settimana importante per Internet, perché inizierà il dibattito per nominare il presidente e i quattro commissari che comporranno il nuovo consiglio dell'AGCOM, appunto l'autorità per le comunicazioni. Da alcune settimane si chiede trasparenza nelle nomine per mettere, diciamo, in una bacheca dei nomi e dei curricula di persone competenti. Vedremo se il governo e i partiti, in particolare PDL e il PD, saranno in grado di modernizzare questo paese, modernizzare anche i loro metodi carbonari e di esprimere candidati competenti e soprattutto giovani. Allora, pensate, il mandato dell'Authority dura 7 anni. Pensate che questa settimana è saltato fuori il nome di un possibile presidente che di anni ne ha 76 e che alla fine del mandato ne avrebbe quindi 83. E io mi chiedo cosa può capire di internet una persona a questa età, ma non perché non si possa imparare, ma perché in queste cose un po' bisogna esserci nati. Allora, tra i candidati alla presidenza o per il posto di commissario c'è anche Stefano Quintarelli, che è stato un imprenditore di successo nel settore internet, quindi uno che ci è nato in mezzo alla tecnologia, e soprattutto è uno di quegli esperti, come piacciono a me, che hanno una visione di sistema, quindi non parlano solo di una cosa, magari una cosa che riguarda loro. Sono sempre stati indipendenti, neutrali. Fino a ieri Stefano Quintarelli era responsabile dell'area digitale del Sole 24 Ore. Molti esperti dicono che sarebbe il presidente giusto nel momento giusto, e lo abbiamo detto altre volte, abbiamo commentato anche questa notizia. L'economia digitale è un'opportunità straordinaria per il rilancio della nostra Italia, e allora è importante che all'Authority ci siano persone competenti. Stefano Quintarelli è con noi oggi, bentornato a 2024. Grazie Enrico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi noi ti abbiamo invitato perché da un po' di tempo, soprattutto nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, soprattutto su internet, ma oramai il dibattito si sta allargando oltre internet, si fa spesso il tuo nome per il rinnovo del Consiglio della Presidenza dell'Authority per le comunicazioni. Noi vorremmo capire da te perché oggi è importante che all'interno dell'Authority entrino persone competenti del settore, che conoscano profondamente il settore, l'ecosistema delle comunicazioni, molto più che negli anni passati, soprattutto guardando la parte internet. Ma diciamo che a spingere in questa direzione è lo sviluppo della tecnologia. 10 anni fa praticamente la DSL non c'era. Nel 2001 ricordo che c'erano 2,4 milioni di collegamenti in banda larga nel mondo. 2,4 milioni nel mondo, il numero che probabilmente oggi c'è solo a Milano. Quindi la rilevanza che aveva internet nei consigli delle autorità precedenti banalmente era molto inferiore rispetto invece alla cosa che stava crescendo in modo esponenziale, che era la telefonia mobile. Quindi erano diverse le tematiche. A questo punto però, grazie a tutti i dispositivi portatili che ormai convergono su internet, tablet, smartphone e compagnia, cioè lo sviluppo di internet è tumultuoso e sta diventando, sia in termini di traffico, ma in termini di tutto, di applicazioni, di modalità di uso, sta diventando decisamente prevalente e lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Cioè quello che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, se pensiamo che internet abbia già cambiato tanto il mondo, beh, nei prossimi 10 sarà ancora più rilevante. Potremmo dire che la prossima autorità dovrebbe essere un'autorità internet centrica, internet authority quasi quasi, più che delle comunicazioni. Beh no, allora diciamo che comunque l'autorità delle comunicazioni non è che si occupa solo di telecomunicazioni, si occupa anche di televisione, radio, si occupa anche di liberalizzazione postale, quindi gli ambiti sono veramente ampi. Certo è che il ruolo che internet avrà nel sistema delle comunicazioni è destinato ad aumentare enormemente e a travalicare anche l'ambito delle comunicazioni stesse. Cioè il telefono si usa per telefonare, al massimo per mandare un fax. Internet si usa per socializzare, avere rapporti con la pubblica amministrazione, con la sanità, con il fisco, con le banche, per comprarci i viaggi, per selezionare gli alberghi, per fare shopping, per giocare d'azzardo, per partecipare, per socializzare. È una dimensione dell'esistenza e questa cosa diventerà sempre di più con la convergenza, vogliamo chiamare la fusione piena tra internet e telefonia mobile, che oggi è un dato di fatto, cioè l'internet mobile oggi è un dato di fatto. I prezzi degli smartphone crolleranno nei prossimi pochi anni e il mercato cambierà enormemente. Questa questione degli smartphone è abbastanza, come dire, particolare, perché in genere nella fantascienza si tende ad anticipare le cose, no? 2001 Odissea nello spazio, no? Nel 2001 saremmo andati su Marte, 1999. In realtà Star Trek prevedeva il tricorder nel 2030-2040, e in realtà l'oggetto che Star Trek prevedeva come tricorder in larga misura ce l'abbiamo già in tasca. È lo smartphone. Che è lo smartphone, dove chiamarlo phone è riduttivo. È un computer, è un pocket computer, ma non è solo computer. Cioè è un terminale con il quale noi parteciperemo alla nostra vita economica, sociale. Cioè lo stiamo già facendo, non tutti. Questa cosa diventerà di massa, lo faranno tutti e cambieranno tante dinamiche. Senti, io dico spesso che bisogna occuparsi o comunque un minimo interessarsi anche, in questo caso dell'autorità per le comunicazioni, dei grandi dibattiti che a volte appaiono relegati alla politica ad altissimo livello. Invece i cittadini se ne devono in parte occupare. Per quale motivo? Perché le decisioni che avvengono in certi palazzi, diciamo, condizionano la vita di tutti noi, di tutti i giorni, soprattutto. Condizionano la vita di tutti noi su tantissimi temi. Per esempio, in Francia è stata decisa una norma che prevede che in caso di pirateria, che è un illecito, possa essere disconnessa una persona dalla rete. Però questo è vedere la rete solamente dal punto di vista del media, dimenticando tutti gli altri aspetti che dicevo prima. Che la rete non è più solo un media, ma è anche uno strumento di commercio, è anche il backbone della produzione, è anche i rapporti con la pubblica amministrazione, le banche, la sanità, eccetera. È una dimensione dell'esistenza. Cioè io non credo che noi potremmo pensare oggi di staccare la corrente per una cosa simile. Ecco, internet è una cosa così, è una general purpose technology, come chiamano gli economisti, che ce ne sono state veramente poche nella storia dell'umanità, cioè sono tecnologie che pervadono tutti i settori della vita e tutti i settori della società, per cui è importante occuparsene. Senti, a proposito di queste decisioni che poi influiscono sulla nostra vita di tutti i giorni, per macro settori, per macro aree, macro temi, che cosa dovrà fare l'Authority nei prossimi 7 anni? Ricordiamo che il mandato dura 7 anni, quindi sì, c'è tempo. Sì, in effetti diciamo l'autorità ha un potere rilevante, non è come il governo, come il ministero, che ha un potere estremamente incisivo di intervento in tempi molto brevi, ma che perché basta fare un decreto ministeriale ed una cosa diventa immediatamente attuativa, direttamente attuativa. L'autorità non fa leggi, l'autorità applica le leggi del Parlamento, quindi l'autorità non fa politica industriale, si limita ad applicare le norme, le leggi. Però nell'applicazione ci però sono. Nell'applicazione talvolta capita, spesso capita, che le leggi stabiliscano che l'autorità deve dare le regole all'interno, nell'ambito di una legge che stabilisce che le cose vanno in una certa direzione, le regole di dettaglio poi le fa l'autorità. Allora chiaramente in queste regole di dettaglio è rilevante la visione del mondo che il commissario ha. Allora, mentre, diciamo, fino al giro precedente, fammi dire, il regolamento di dettaglio riguardava per lo più cose che sono state uguali a se stesse negli ultimi 50 anni, la prossima autorità si troverà a vedere delle cose che sono completamente diverse. No, la televisione, i giornali, i portali internet, che differenza c'è tra questi? I tablet avranno una diffusione massiva e sui tablet già ci va Sky piuttosto che Mediaset, piuttosto che la Rai, piuttosto che YouTube. Allora, come sono? Cioè, e lì dentro c'è anche il Sole 24 Ore con i nostri video, cioè, quindi tutto tende a collassare lì dentro, ad integrarsi lì dentro, e come dire, quindi è uno scenario di cambiamento dei perimetri rispetto al precedente, dove queste cose erano tutte separate, per cui all'interno di questi regolamenti bisogna tenere conto di una visione del futuro che guardi al di là, avendo una conoscenza della tecnologia di base e degli effetti economici della tecnologia. Quindi diciamo che questa discontinuità, dal mio punto di vista, richiede che più che in passato ci siano non solo competenze giuridiche, competenze istituzionali, amministrative, eccetera, ma anche competenze tecnologiche di mercato. Stefano, grazie, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie Enrico, a presto. 2024. Luigi Bignami, nuovamente buongiorno. Ciao Luigi, bentornato. Buongiorno a tutti. Sono le 16:19 minuti, questo è 2024, adesso parliamo di spazio, perché oggi noi avevamo fissato questa puntata per oggi pensando di fare una cosa buona, perché tu 7 giorni fa mi dicevi: no, guarda, ci siamo proprio. A che cosa facciamo riferimento? Al lancio di? Al lancio di Falcon 9, quello che dovrebbe essere il razzo del prossimo futuro, che porterà sia del materiale sia uomini alla Stazione Spaziale Internazionale. Un razzo tutto americano, un razzo tutto privato. Tutto privato, e questa è la cosa nuova. E alcuni dicono che con questo lancio, che avverrà martedì, poi spieghiamo anche perché, inizia una nuova era. È l'era del privato. Per la prima volta una società partita, nata soltanto 10 anni fa, nel 2002, ha raccolto attorno a sé circa 1700 persone, tra le quali diversi astronauti che un po' sono andati in pensione dalla NASA, un po' se ne sono andati liberamente, e ha raccolto veramente la creme della tecnologia che c'era negli Stati Uniti a proposito appunto della ricerca aerospaziale, e ha creato un razzo e una capsula del tutto nuovi, non tanto dal punto di vista concettuale, ma proprio nella capacità di assemblare un razzo, di assemblare una capsula e di poterli spedire nello spazio. 2 lanci con questo Falcon 9 erano già stati fatti nel 2010 ed erano andati così bene che un terzo lancio, prima di quello che avrebbe portato la capsula alla Stazione Spaziale Internazionale, è stato annullato. Infatti questo lancio mette insieme quelli che dovevano essere gli obiettivi di 2 lanci diversi. Quindi il lancio previsto per oggi, per questa mattina, ore 10:55 ora italiana, è diretto perché avverrà martedì alla Stazione Spaziale Internazionale con un cargo. Allora facciamo sentire, così spieghiamo anche perché questo lancio non è stato fatto, il countdown che ha fregato anche il telecronista della NASA, abbastanza famoso per chi segue i lanci spaziali. Falcon 9, 10 secondi al lancio. We're in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-0 and lift off. We've had a cut off, spenti i motori. Lift off did not occur. Insomma, questo lancio è stato, eccolo qua, launch abort, quindi è stato abortito, insomma, è stato annullato e diciamo ha fregato anche il cronista, perché i motori si sono accesi, il cronista l'ha data per fatta, cioè lift off, parte il lancio, invece c'è stato un problema. Spieghiamo che cosa è successo. Di solito i motori vengono accesi almeno 3-4 secondi prima, esattamente 3,6 secondi prima, perché è il tempo necessario prima del zero, prima del go, per dare la spinta al razzo per partire. Quindi tutti noi abbiamo visto quei motori accendersi e il lift off si è allungato perché nonostante fossero arrivati allo zero il razzo non si alzava. E cosa è successo? Lì per lì grande panico perché si aveva paura che potesse addirittura esplodere, invece con il passare delle ore si è capito che il quinto dei 9 motori di cui è dotato il primo stadio del Falcon 9 non aveva la pressione sufficiente per far sì che l'ossigeno e il cherosene potessero bruciare nel giusto modo. E quindi quel computer che controlla il motore ha detto no. Esatto, proprio parte. Così, e quindi si è fermato tutto quanto. Certo, dalle prime analisi si è capito che non c'era nessun altro problema se non quello. Ora si sta cercando di capire se è un problema del computer o un problema effettivamente del motore. Sembrerebbe che sia un problema del computer. Del computer. Esatto, tarati al punto tale per cui cercano di proprio di essere di dare la massima sicurezza al lancio, cioè se non si arriva proprio alla perfezione di quelli che sono i dati immessi, il computer fa spegnere tutto quanto. È già successo sì, altre sì, ecco, volte. Diciamo insomma, che è abbastanza normale che appunto essendo così precisi e così stringenti i limiti di sicurezza, è abbastanza normale che insomma non parta al primo colpo un razzo, giusto? Certamente, è successo addirittura con lo shuttle, è successo addirittura con il Saturno 5 che portava gli uomini sulla Luna. Infatti non ci siamo preoccupati. Questa mattina tu gentilmente mi hai passato il numero di telefono di Marco Villa, che è un italiano a comando di questa missione. Di preciso cosa fa? Lui schiaccia proprio il bottone? Adesso non c'è proprio un bottone perché è tutto automatico. No, lui non schiaccia il bottone della partenza, ma lui segue l'evolversi della missione e dà il go per ogni passo successivo. Cioè vuol dire, se il razzo arriva in orbita nel momento giusto, al punto giusto, e bisogna cambiare poi di orbita per avvicinarsi alla stazione spaziale, è lui che dà il go. Quando la capsula è vicina alla stazione spaziale è lui che dice ok, la possiamo avvicinare a 100 metri, a 50 metri, a 15 metri. Quindi è diciamo la persona di riferimento all'interno di questo staff di centinaia di persone che segue la missione immediatamente dopo la partenza e dà tutte le direttive, quindi dà proprio il go o il non go per sì. Gli step successivi. Ok, infatti dicevo, ci ho parlato questa mattina e avremmo voluto averlo ospite in trasmissione, ma non mi hanno ancora dato l'autorizzazione, non abbiamo avuto il tempo di ottenere l'autorizzazione, sono sempre un po' complesse queste cose, ma al di là di questo lancio che appunto ripartirà martedì. Ci riprovano martedì per portare sulla stazione spaziale internazionale un po' di materiale, giusto? Esattamente, sono circa 600 kg, 521 kg di materiale, che non è materiale per il quale se non arriva alla stazione spaziale qualcuno muore. Esatto, sì, no. Ma sono esperimenti di studenti che sono stati scelti nel corso di questi anni e poi anche del materiale che per la sopravvivenza degli astronauti, ma non è materiale stringente, anche se non ci arriva non importa. Sì. Tra l'altro una cosa interessante è che questa settimana verso la stazione spaziale internazionale c'è stato un traffico pazzesco. E certamente perché ci sono stati degli astronauti che sono tornati circa 10 giorni fa e 3 astronauti, tra cui un europeo, che sono andati alla stazione spaziale, perché ormai questa stazione spaziale è abitata permanentemente da 6 persone che vivono lassù per 6 mesi e ovviamente ci sono dei periodi di 10 giorni, 15 giorni durante i quali al ritorno di un gruppo di astronauti, di una expedition come la chiamano alla NASA, c'è un buco e quindi rimangono a bordo soltanto 3 uomini. Tuttavia ormai dal 2000 questa stazione spaziale è abitata continuamente, anzi proprio in questi giorni abbiamo saputo che Parmitano, che è uno degli astronauti italiani, ha avuto il go per salire sulla stazione spaziale nel 2013 e vi rimarrà per 6 mesi come ha fatto Nespoli. Quindi è il primo dei giovani astronauti? È il primo dei giovani astronauti. Tutti pensavano che fosse la ragazza. No, invece è stato scelto, tant'è vero che l'Agenzia Spaziale Italiana ha indetto un concorso per dare un nome a questa missione, per darne un significato simbolico, e chi dovesse vincere poi questo concorso potrà andare ad assistere al volo. Solo alla partenza. Però non certo. Andare sulla stazione spaziale internazionale. internazionale. Allora, noi oggi, io ho chiamato Luigi Bignami perché vogliamo capire il motivo di questo di questa corsa agli investimenti, perché ho detto all'inizio della trasmissione che molti degli investimenti, tra l'altro, che arrivano dal mondo della tecnologia, quella di cui noi parliamo spesso 2024, cioè del mondo internet, si stanno spostando. Comunque buona parte degli investimenti che vengono fatti nel mondo dello spazio privato arrivano dal mondo della tecnologia, quindi c'è un grande interesse. Ma Luigi, per fare che cosa? Cioè, dove sta il business? Non è solo divertimento. No, assolutamente. Non è che questi sono miliardari e dicono vabbè, facciamo il razzo per andare nello spazio. No, assolutamente. C'è ovviamente un amore da parte di colui che ha messo in piedi questa società, che è Elon Musk, il cofondatore di PayPal. Quindi questo si è arricchito così tanto, il suo sogno era quello di far qualcosa per lo spazio e quindi ha investito proprio per una sua passione. Però il business c'è, perché queste persone non fanno nulla se dietro c'è un business. Qual è? Ce ne sono di due tipi. Il primo è quello dei satelliti. Bisogna portare sempre più satelliti nello spazio, di tutte le dimensioni: grandi satelliti, medi satelliti, piccoli satelliti. Pensiamo ai grandi gruppi di satelliti per i GPS, ormai ce l'hanno gli americani, lo stiamo mettendo in piedi noi europei, i cinesi ci stanno arrivando, i russi, e questi satelliti hanno una vita media che poi devono essere sostituiti, e qui si parla di 36 satelliti. Ma pensiamo ai satelliti per telecomunicazioni, i satelliti ambientali, i satelliti meteorologici, quindi c'è un grandissimo business di richiesta per portare in orbita dei satelliti. La SpaceX, la società che ha costruito questo razzo, ha già ricevuto 40 commissioni di lancio di satelliti. Di solito sono grappoli di satelliti, magari se ne lanciano due o tre insieme. Sì. E quindi c'è questo, diciamo, questo grande business. Questo è il primo business. Il secondo... Ce lo dici fra pochi minuti. 2024. Le 16:32 minuti, questo è 2024. Oggi parliamo di un tema, potremmo anche definire questo mega trend, gli investimenti dei privati nello spazio, soprattutto negli Stati Uniti. Ne stiamo parlando con Luigi Bignami. Luigi, ho detto bene, soprattutto negli Stati Uniti, o c'è qualche altro paese dove vengono fatte queste cose? Beh, al momento sono solo gli Stati Uniti, assolutamente. È interessante, non ricordo se l'ho letto, qualcuno me lo ha riferito, è interessante notare che internet negli Stati Uniti è nato in ambito militare, poi è stato donato alla popolazione e poi è nato un business sopra ad internet. La stessa cosa sta succedendo nel mondo dello spazio, è nato in ambito militare per poi essere, lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, nascere, per poi vedere nascere un'industria privata. Dunque, ci dicevi prima che il primo business è quello del lancio dei satelliti. In effetti, se uno va sui siti specializzati su internet, vede che ogni settimana c'è un traffico incredibile di razzi. Oramai ci sono anche gli indiani, i cinesi, i giapponesi sono attivissimi. Esattamente, proprio in questa settimana sono entrati nel business della compravendita dei satelliti. Ah, sì? Fino adesso non si erano messi in concorrenza per lanciare satelliti, invece da questa settimana sono proprio entrati nel business, si sono offerti con il loro razzo a lanciare satelliti per chiunque. Dunque, dicevamo, allora, il primo business è il lancio dei satelliti ed è incredibile questo business. Il secondo, terzo, quarto business quali sono? Allora, il secondo è il lancio dell'uomo nello spazio, che possiamo suddividere in due categorie. Il primo è il lancio dell'uomo in questo momento alla Stazione Spaziale Internazionale, perché ai nostri giorni, dal 2010, chi può e chi riesce a lanciare satelliti uomini nello spazio sono soltanto i russi con il loro Soyuz. Quindi qualcuno si deve anche aggiungere ai russi nella capacità di lanciare uomini nello spazio. Uomini alla stazione spaziale, molto presto attorno alla Luna, molto presto, in termini diciamo ovviamente non di mesi ma di qualche anno, addirittura gli asteroidi. E la seconda parte di questo lancio di uomini nello spazio è il turismo spaziale. Ed è proprio di questa settimana, anche qui, un contratto che è stato fatto tra la SpaceX, questa società che ha costruito il Falcon 9, e la Bigelow, una società di cui forse pochi hanno sentito parlare, ma che ha comperato quello che era il modello della stazione spaziale gonfiabile che gli Stati Uniti, che la NASA aveva costruito per portare, per agganciare la stazione spaziale e in un futuro portare addirittura sulla Luna e su Marte, ma poi visto che c'è stato un dilungarsi del ritorno dell'uomo alla Luna e anche su Marte, ha venduto quello che erano le caratteristiche tecniche, le ha comperate questa società, e questa società ha già costruito due modelli di stazione spaziale in miniatura, cioè di un quarto delle dimensioni reali, le ha lanciate nello spazio già 5 anni fa, e queste mini stazioni spaziali funzionano perfettamente. Dentro ci potrebbe abitare un uomo e funziona perfettamente. Ora, anche questa società avrebbe dovuto fare un altro lancio di un modello in dimensioni reali, ma questi funzionano così bene che hanno detto è inutile farlo. Li prendiamo in affitto. Esatto, le diamo in affitto. Le diamo in affitto. Esatto, la prima società che sarà pronta, hanno detto, a lanciare uomini alla nostra stazione spaziale, noi lanciamo la stazione spaziale. Si sono già fatte avanti in due, la Boeing, che sta costruendo la sua capsula privata anch'essa, e quindi è un nome del tutto affidabile, e potrà lanciare nello spazio 7 uomini, ha già costruito il sistema di aggancio che va bene per la Bigelow, e la stessa SpaceX si è fatta avanti dicendo anche noi siamo pronti per darvi la capsula per poter portare gli uomini alla stazione spaziale, che sarà del tutto privata. Chi ci andrà? Ci andrà chi avrà la possibilità di spendere qualche decina di milioni di euro, di dollari, per passare un weekend, per stare lassù 10 giorni in santa pace, e per tutto il mondo della ricerca scientifica che vorrà fare degli esperimenti in tempi molto brevi. Potrà anche affittare la stazione spaziale semplicemente per portare lassù un esperimento e riportarselo indietro dopo 10 giorni, 15 giorni o quanto tempo avrà desiderio. Quindi c'è questo business che sta nascendo. È chiaro che è una questione di qualche anno, ma sicuramente noi vedremo questo andare e tornare alla stazione spaziale privata, che sarà un po' più vicino a quel sogno di 2001 di sé nello spazio, che ci faceva vedere una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra dove si poteva andare e tornare con una certa velocità. Che cosa ci dici di Virgin Galactic? Virgin Galactic è vicinissima al primo lancio. Ormai nel silenzio del deserto degli Stati Uniti, questo mega aereo che riuscirà a portare a 17.000 metri un aereo razzo dove ci potranno stare 6 uomini, sta facendo tutta una serie di voli che stanno andando benissimo. Questi voli dovrebbero avere un inizio di lancio di un primo astronauta al di fuori della stazione spaziale alla fine del 2012, e quindi dal 2013 dovrebbero iniziare i voli per i turisti, esattamente, al costo in questo momento di $200,000 per un viaggio che dura circa 2 ore e mezza, il tempo di arrivare a 17.000 metri, il tempo di andare nello spazio, e andare nello spazio significa raggiungere e superare i 100 chilometri, perché diciamo ufficialmente si dice che a 100 chilometri termina l'atmosfera, quindi si arriva a circa 105 chilometri d'altezza, si spengono i motori e lì questo aereo razzo inizia una caduta foglia, si dice, e si trascorrerà dai 5 agli 8 minuti in assenza di gravità, si potrà vedere la Terra sotto come la vedono gli astronauti sulla stazione spaziale, la Terra nella sua bellezza di azzurro, di nuvole bianche, dall'altra parte il buio dello spazio, e dopodiché si ritorna sulla pista di partenza e l'aereo dopo poche ore potrà essere pronto per riportare altri 6 uomini nello spazio. Un business diverso, perché non permette questo aereo e questo aereo razzo di fare un volo orbitale, cioè di portare uomini attorno alla Terra e rimanere per un'orbita, 2 orbite, ma semplicemente fare dei voli suborbitali, cioè si arriva ad una determinata quota e poi si ritorna a casa. Sentiamo Riccardo che ci chiama da Macerata. Buongiorno Riccardo. Sì, buongiorno. Prego. Sì, no, la mia era soltanto una curiosità, perché sentivo adesso parlavate dello spazio lì. Gli satelliti quando hanno finito la loro, diciamo, missione, quindi o sono arrivati dopo diversi anni al loro esaurimento, che fine fanno? Vagano per lo spazio, ci cadono in testa, si autodistruggono. Era soltanto questo, diciamo. Grazie Riccardo. Beh, ogni tanto qualche satellite ci prova a caderci in testa, però non ci qualcuno ci è riuscito. No, Luigi, ma questa è una domanda molto importante, perché fino a un po' di anni fa non si pensava al lancio di un non si pensava a cosa sarebbe successo quando un satellite fosse terminata la sua vita. Cosa ne sarà di questo satellite? Nessuno ci pensava. Si diceva sì, beh, più o meno rientrerà nell'atmosfera e brucerà. Invece in un congresso che è stato fatto con tutte le nazioni che stanno sfruttando lo spazio, si è detto che dal 2010, anzi 2009 se non sbaglio, tutti i satelliti che vengono lanciati devono avere a bordo una quantità di carburante sufficiente perché al termine della loro vita vengano fatti rientrare con una traiettoria ben precisa sull'Oceano Pacifico e possano bruciare completamente. Quindi non ci cadono a casaccio in testa, ma la traiettoria, che è molto verticale, quindi fa bruciare perché non hanno scudi termici, fa bruciare completamente il satellite, lo demolisce completamente. Certo, il problema è quando un satellite va fuori rotta e non si riesce più a controllarlo, come è successo ad Envisat nell'ultimo mese, questo satellite importantissimo per il clima della Terra, 10 anni di lavoro che davvero ha tenuto sotto controllo l'atmosfera terrestre, i ghiacciai, i mari e così via, anch'esso sarebbe dovuto cadere bruciando nell'atmosfera, invece si è spento improvvisamente, non si sa cosa è successo e viene dato per morto. Ora è chiaro che chi controlla il satellite, cioè l'Agenzia Spaziale Europea, lo tiene continuamente sotto controllo e sa dov'è istante per istante, e riusciremo a capire il momento in cui inizierà ad attraversare l'atmosfera e bruciare. Però per questo satellite non si può fare nulla perché è fuori controllo. Quindi il rischio c'è. Il rischio c'è comunque. Che qualche satellite possa cadere. Però tu ci hai spiegato, insomma, che se tutto va secondo le normative dovrebbe cadere in questa, ma qualche pezzo cade comunque nell'oceano oppure proprio si brucia completamente? Diciamo che qualche pezzettino potrebbe cadere, però in teoria dovrebbe bruciare completamente. Tutto quanto, sì. Dunque, il nostro ascoltatore al nostro numero verde ci chiede notizie di Richard Branson, che è il capo, il fondatore della Virgin, e abbiamo parlato poco fa appunto di Virgin Galactic, che è appunto la società di Richard Branson. Parliamo di altri business, sempre per capire il perché alcuni dicono, e noi stessi abbiamo detto, sta iniziando una nuova era per il mondo dello spazio. Abbiamo parlato dei satelliti, abbiamo parlato del lancio dell'uomo nello spazio, nelle varie modalità. C'è anche il grande business dei minerali. Assolutamente. I minerali che si trovano soprattutto negli asteroidi. Noi sappiamo che gli asteroidi sono i mattoni del nostro sistema solare, per cui ciò che noi oggi troviamo nella Terra e che stiamo togliendo dalla crosta terrestre è presente in grandi quantità negli asteroidi. A volte ci passano vicino, a volte ci fanno un po' paura, a volte invece se ne stanno lontani, ma conosciamo bene qual è la loro composizione. Ebbene, questo è un obiettivo sia scientifico estremamente interessante, perché ci permette di capire che cosa come è nato il nostro sistema solare, ma anche proprio per estrarre minerali. Quei minerali che sulla superficie della Terra sono pochi, ma che ahimè sono entrati nell'alta tecnologia, nella tecnologia dei computer, nella tecnologia delle televisioni e così via. Per cui è stato fatto un'analisi ormai e si è visto che questi asteroidi possono essere delle miniere da cui estrarre i minerali e spedirli sulla Terra. Tant'è vero che è nata recentemente la Planetary Resources, che è una società nata tra persone ricchissime negli Stati Uniti, tra cui c'è lo stesso Cameron, che qualche mese fa il regista di Alien, esatto, di Titanic. E che è sceso nella fossa delle Marianne. Quindi è una persona che quando dice che di fare una cosa perlomeno ci tenta e arriva a certi obiettivi. Ha messo in piedi questa società con altre persone per andare a coltivare degli asteroidi. Ne sono già stati scelti 3 o 4 asteroidi che passano vicino alla Terra, quindi si possono agganciare e si possono portare ulteriormente vicini alla Terra. Cioè sono comodi, insomma. Sono comodi, esatto. E per alcuni di questi asteroidi addirittura è stato quantificato quello che potrebbe essere il guadagno. Si parla di trilioni milioni di dollari attuali. Quindi veramente c'è la possibilità di sfruttare questi asteroidi, che ci sembra quasi una cosa fantascientifica, ma non lo è, perché la tecnologia ce l'abbiamo già. La NASA infatti sta studiando il modo di agganciare un asteroide, di metterci proprio, di riportare a casa dei campioni con degli uomini. Quindi la tecnologia c'è, mancano i soldi per poter costruire tutto il sistema che permette di lanciare delle astronavi e mandarci a casa quelli che sono i minerali più interessanti. Tutto questo, se ci pensiamo, ci riguarda molto da vicino, perché tu hai citato la tecnologia che utilizza questi minerali, e potrebbe accadere, se non si corresse ai ripari, che fra qualche anno comprare un computer costi una cifra spropositata, che non si trovino i computer, perché già c'è un accaparramento o comunque una ristrettezza di risorse relative alle famose terre rare. E questi sono problemi, insomma, che ci riguardano da vicino. Se noi pensiamo, e lo citiamo spesso a 2024, che i prezzi di questi prodotti tecnologici debbano diventare molto più popolari, ma se i minerali che servono per costruirli sono rari o comunque non si trovano, questo è un problema. Allora ecco che gli americani stanno andando al di là dell'atmosfera. Ne riparliamo tra un minuto. 2024. L'ultima parte di 2024, vi ricordo che la nostra puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Oggi con noi Luigi Bignami, che sicuramente in Italia è uno dei massimi esperti di spazio, è un giornalista scientifico e si occupa di spazio da quanti anni, Luigi? È meglio non dirlo? Da quando avevo 14 anni e l'uomo andò sulla Luna, adesso ne ho 56. Senti, noi europei, anche noi italiani, per questo che a me piace parlare di spazio, anche per pensare al sistema paese, siamo bravi a costruire alcune delle cose che servono per andare nello spazio, giusto? Assolutamente sì, dall'elettronica per quanto riguarda proprio i cervelli che guidano le sonde, che guidano anche i razzi, fino a quelli che sono i moduli, per esempio, per la stazione spaziale. Li abbiamo costruiti in Italia, quindi c'è una grandissima capacità di poter proprio entrare nel mondo dello spazio. Non peraltro abbiamo costruito il Vega, questo razzo che è in grado di lanciare piccoli satelliti, che ci è stato in qualche modo, tra virgolette, comperato dall'Europa, ma i motori sono stati costruiti in Italia, sono stati provati in Italia, quindi c'è alle spalle di questo razzo l'Italia al 100%. Ecco, in questo business dei privati nello spazio, soprattutto americano, c'entriamo qualcosa, cioè riusciamo a vendere qualche cosa, o siamo legati al mondo europeo che guarda più che altro alla ricerca scientifica e non al business? L'Italia lavora su due binari: da un lato lavorando con l'Agenzia Spaziale Europea, con tutti i finanziamenti che l'Italia dà all'Agenzia Spaziale Europea, che poi ci ritornano per sviluppare quelle parti che abbiamo detto poco fa; dall'altro l'Italia fa dei contratti direttamente con la NASA o con la Russia, con l'ente spaziale russo, non con i privati però americani. In questo momento non c'è nessun legame con queste grosse società che stanno entrando nel mondo. Tuttavia io penso che se l'Italia continua a rimanere a questo livello, perché non dobbiamo scendere sotto quelle che sono le nostre capacità che abbiamo raggiunto fino a questo momento, sicuramente prima o poi ci vengono a chiedere qualche cosa anche le società private, perché la nostra esperienza in questi settori che ho appena detto è molto elevata. Addirittura quando si parlava di ritornare alla Luna entro il 2020, la NASA aveva già dato un mezzo ok all'Agenzia Spaziale Italiana di far costruire in casa nostra quelli che sarebbero stati i moduli per far vivere gli astronauti sulla Luna. Quindi c'è davvero una base tecnologica molto elevata. Non dobbiamo perdere quello che è il know-how di tutto questo. Chissà se in Parlamento sanno questo, cioè quanti, perché sicuramente qualcuno lo sa, quanti sanno e sono consapevoli di questo valore che abbiamo nel paese, di queste conoscenze, queste capacità. Senti, a proposito dei privati nello spazio, c'è chi ha detto, ho letto, anche tu stesso parlando con me, mi dicevi che queste navicelle, questi razzi costano, sono più economici rispetto a quelli che conosciamo oggi, giusto? Certamente. Ma sono altrettanto affidabili? Ecco, questa è una parola per cui ci sono degli astronauti americani che stanno dicendo: ma siamo veramente sicuri dell'affidabilità? Allora, bisogna tener conto di un fatto, che nessun razzo parte dagli Stati Uniti se non è stato validato secondo i criteri che fissano delle regole ben precise, che vale sia per la NASA che per il privato. Il privato non può dire: domani mattina lancio il razzo con 6 uomini a bordo perché mi va di farlo. Deve passare tutta una serie di step che la NASA in primis va a vedere se davvero sono stati raggiunti, tant'è vero che nel caso della SpaceX la NASA ha dato ben 380 milioni di dollari per sviluppare quella che è la tecnologia della sicurezza, e li sta dando anche ad altre società, perché altre società stanno lavorando in questo senso. Quindi c'è sicuramente una sicurezza che è intrinseca nel momento in cui si costruisce il razzo o la capsula. Il problema è l'esperienza, cioè sono tutte persone che forse non hanno quell'esperienza che all'interno della NASA si è riuscita a creare in 50 anni di storia dell'astronautica. Però la sicurezza in termini assoluti dovrebbe esserci, e sicuramente molto superiore a quella che era il lancio del Saturno 5, per esempio, che certo, non era così sicuro come invece lo è il Falcon 9. Sì. Beh, poi un'altra forse conferma di questo è che la NASA addirittura ha messo a disposizione la rampa di lancio di Cape Canaveral. Esatto. Che è un po', come dire, San Pietro per la religione, no? Certamente. La famosa rampa di lancio numero 40. Purtroppo, ahimè, le rampe di lancio dei Saturno così sono state smantellate, però questa è una rampa che è lì ed è la rampa da cui partono anche altri razzi e così via. Quindi davvero la NASA ci crede come ente. In questo momento in cui la NASA sta costruendo la propria capsula, sta costruendo un razzo molto più potente di quello che aveva fino ad oggi, ma in questo momento crede anche nei privati, che possono essere il momento intermedio prima del 2017, quando lancerà una capsula, la sua capsula, la Orion, che sta costruendo, e poi la lancerà attorno alla Luna come prova, e poi nel 2021 lancerà degli uomini attorno alla Luna. Quindi in questa fase intermedia sta puntando la NASA stessa proprio sulle società private. Dunque, Falcon 9 ci riprova martedì mattina. Martedì, giusto? Mattina. Allora, nell'attesa, riascoltiamoci questo countdown che non è finito come avremmo voluto, però è divertente perché mi piace questo speaker che rimane un po' così sorpreso. We're at T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And lift off. We've had a cut off. Beh, insomma, divertente questo speaker della NASA che ci riproverà anche lui martedì. Grazie a Luigi Bignami. Luigi, a presto, buon lavoro. Grazie a tutti voi, a presto agli ascoltatori. Ci potrete riascoltare all'interno del podcast di Radio 24. Grazie come sempre alla nostra redazione, grazie anche a Paolo Corleone che si è occupato della parte tecnica, io sono Enrico Pagliarini, non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci, 2024@radio24.it. Torniamo la prossima settimana. La prossima settimana saremo come sempre in onda tra le 15.30 e le 17. Vi anticipo già che saremo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento il 2 giugno, quindi se volete venirci a trovare dal vivo potremo fare qualche chiacchiera, magari dopo la trasmissione. Io sono Enrico Pagliarini, un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024. 2024.